sé, pensare e poi volare noi momenti ancora di una sera. Poi cercare puoi sentire noi quei sospiri intensi di una volta, perché con noi il tempo resterà, l'amore non si scorda con l'età, dentro di noi un posto troverà, ricordo di una volta poi sarà. Sparirà il sole nascosto dentro il mare, un faro nella notte accenderà, luci di un tempo, momenti di magia, come un sogno tenerci in compagnia, solo poesia, un suono sentirai, ascoltala nel tempo e troverai di nuovo noi, tornati ancora qui, senza tempo e vivere così. Tramonterà il sole, si infiammerà il mare, ma l'alba una volta resterà. Amori di un tempo, istanti di follia, una luce che illumina la via. Questa poesia del suono ascolterai, le note in fondo al cuore troverai, poi sempre noi, rimasti ancora qui, senza tempo, e viverla così, così.